L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per una nuova puntata dell'Altro Pianeta, nella quale parliamo di acqua, perché il 17 giugno si terrà alla Casa dell'Energia di Milano la seconda Smart Water Forum Conference. La seconda conferenza sull'acqua smart, o meglio sui sistemi per rendere intelligente la gestione dell'acqua. Coordinatore del forum è il professor Furio Cascetta, direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, ed è anche il nostro ospite oggi pomeriggio. Ben ritrovato. Buon pomeriggio a lei e grazie dell'invito, e buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio 24. Organizzatore dell'evento invece Sensus, azienda specializzata in prodotti per la misurazione dell'acqua, media partner, e ne siamo molto lieti, Radio 24. Ma adesso, professore, veniamo un po' a noi. Parliamo sempre di smart city e pensiamo all'energia, invece in una smart city ci deve essere anche una gestione intelligente dell'acqua. Cosa sta accadendo in Italia? Diamo una panoramica ai nostri ascoltatori. Sì, infatti. La ringrazio della domanda. In effetti la parola smart in genere è un termine evocativo, no? Che richiama nella mente di tutti noi progresso, innovazione, benessere, quindi c'è un'aspettativa, un'attesa di socialità anche evoluta. Si parla sempre di città intelligenti, ma in realtà la città intelligente diventa tale se ha una piattaforma abilitante, un sistema, un'infrastruttura di telecomunicazioni che consente alla città, appunto al territorio, di sviluppare i suoi servizi intelligenti. Come lei diceva giustamente, si parla tanto di reti elettriche intelligenti, perché effettivamente sono già reti predisposte con dispositivi intelligenti, sono molto meno intelligenti gli altri sottoservizi, altri servizi di pubblica utilità come le reti gas e le reti acqua in particolare. Quindi effettivamente sentivamo l'esigenza di porre il focus della nostra conferenza sulle reti idriche, che storicamente scontano sempre un po' uno svantaggio in termini di arretratezza tecnologica, e quindi diciamo non guasta mai portare l'attenzione dei convegnisti sull'importanza di rendere anche una rete idrica una rete smart, cioè una rete in grado di avere dispositivi smart e in particolare il contatore smart, i sistemi di misura smart. Lei, professore, insiste sempre sulla misurazione come primo passo, certo. No? Perché noi in Italia non sappiamo bene con precisione quali sono i consumi, com'è la rete, così. Cioè, alcuni hanno fatto dei progetti importanti, delle sperimentazioni, certo, importanti, ma direi che la maggioranza invece non hanno goduto di queste sperimentazioni. È così, basta fare il paragone con il sistema elettrico. Abbiamo tutti noi esperienza di contatori elettrici digitali di ultima generazione, che sono appunto smart meters. Non abbiamo la stessa esperienza per i contatori dell'acqua, quindi diciamo la nuova tecnologia e l'innovazione consentirebbe di avere diciamo misure più accurate e più affidabili da un punto di vista metrologico, quindi rappresenterebbe quella che io chiamo una sentinella di legalità, la giustezza, la correttezza della misura, ma rappresenterebbe anche una modalità per avere i consumi in tempo quasi reale, per poter, come dire, educare e sensibilizzare il consumatore a meglio utilizzare il servizio. Quindi il mattone fondante di una smart grid, di una rete intelligente, quindi anche di una città intelligente che si compone di varie reti intelligenti, l'elemento fondante, ripeto, è sempre il contatore elettronico, un contatore di nuova generazione. Il vantaggio, a quanto ho capito dalle sue parole, è duplice, sia per il cittadino sia per chi gestisce la rete. Esattamente, il cittadino con un contatore, innanzitutto un contatore intelligente basato su una nuova tecnologia di misura, preferibilmente statica, e un contatore elettronico molto performante. In Italia abbiamo purtroppo una vetustà dei contatori installati, diciamo, non incoraggiante, nel senso che abbiamo contatori tutti quanti installati di tipo meccanico che risalgono, diciamo, a decine di anni fa, il cui progetto è addirittura, diciamo, del secolo scorso, quindi non proprio il top della tecnologia. Un contatore elettronico quindi performa meglio, misura meglio, contabilizza meglio, trasmette i dati a distanza, dando le informazioni in tempo, diciamo, utile al consumatore, e soprattutto consentendo all'azienda anche di chiudere dei bilanci idrici, quindi di aumentare l'efficienza della rete di distribuzione. È assolutamente uno strumento, diciamo, che va a favore sia di chi gestisce la rete, quindi il distributore idrico per intenderci, sia del cittadino consumatore che utilizza il bene. Che tra l'altro pagherebbe esattamente quello che consuma, mentre non sempre è così, esatto. Oggigiorno, no? Ci sono le bollette pazze, ci sono persone che dopo anni si vedono recapitare una bolletta, non avevano neanche la più pallida idea che c'era magari una perdita, qualcosa per assolutamente, cui... assolutamente, giustissimo. In realtà la possibilità di avere i consumi, diciamo, in tempo reale consente proprio di pagare le bollette senza consumi presunti, diciamo, di evitare bollette pazze, che, diciamo, pensiamo solo all'aspetto del... di un display digitale, di quale vantaggio comporta rispetto anche alla percezione che ha il diciamo l'utente, no? Invece di avere il contatore con i rulli, dove spesso, diciamo, sbalzi di pressione o altri inconvenienti meccanici dovuti all'usura possono danneggiare il totalizzatore, questi numeri che troviamo sul contatore tradizionale meccanico, il solo display digitale chiaramente risolve ogni problema di cartella pazza, perché evidentemente la, diciamo, la lettura non è soggetta a errori. È chiaro che tutto questo si può avere con delle tecnologie nuove. Bisogna dire che l'acqua non brilla, diciamo, nel primato dell'innovazione, c'è un po' una tendenza conservativa all'utilizzo delle tecnologie, e quindi, diciamo, lo spirito del convegno è quello proprio di far comprendere e di far aprire alle nuove tecnologie. Il progresso è assolutamente legato, diciamo, all'innovazione delle nuove tecnologie, in particolare di misura anche nel mondo dell'acqua. Solo con le nuove tecnologie digitali possiamo avere tutti questi vantaggi, così come li hanno i contatori elettrici smart e le reti elettriche di cui parlavamo prima. Ma perché dell'acqua ci si è occupati così poco, le reti sono rimaste, abbiamo tutti questi vecchi contatori, qual è stato l'inghippo, diciamo così? Questa è una bellissima domanda, diciamo che varie volte si fa questa analisi in tavoli tecnici, in convegnistica di vario tipo, nazionale e internazionale. Devo dire che l'acqua sia un po' il fanalino di coda dei servizi di pubblica utilità, dei sottoservizi, delle reti cittadine, non è una caratteristica solo italiana, ma un po' di molti paesi europei, ma anche non solo europei. Diciamo che c'è un aspetto storico sostanzialmente, diciamo, per cui le prime reti costruite nelle città erano le reti dell'acqua, e quindi le tecnologie erano quelle dell'epoca delle costruzioni di queste reti idriche, che poi si sono sviluppate insieme alla crescita della città. Questo è uno dei motivi, diciamo, storico per cui ci troviamo dei contatori, come dire, che hanno molti decenni di vita, di esercizio e anche di, proprio di produzione, di concetto di produzione. Io vorrei anche spendere un po' una parola su un aspetto sociologico, perché molto spesso, come dire, gli operatori, chi opera nel settore dell'acqua lamenta sempre mancanza di risorse finanziarie, lamenta sempre non ci sono mezzi per investire, l'innovazione costa, non abbiamo molti costi, le tariffe sono bloccate, tutte le solite, diciamo, lamentele che spesso sentiamo, come è difficile portare innovazione e investimenti nel mondo dell'acqua in virtù della pochezza di risorse finanziarie. Questo secondo me è una logica che bisognerebbe ribaltare, bisognerebbe incrementare un livello di cultura. Ecco, la vera città smart, la vera città intelligente è quella che ha al suo interno la cultura del, diciamo, un cambio di mentalità, un cambio di cultura, una cultura aperta all'innovazione, al cambiamento. Ecco, dalla scarsità di risorse economiche dovremmo passare all'intelligenza dell'investimento, capire che alcuni investimenti possono portare dei benefici in tempi ragionevoli dell'investimento, sia a chi conduce la rete sia a chi utilizza il bene. Anche perché se no non ne sarebbero stati fatti, al di là del fatto che l'acqua è un bene prezioso, che va preservato, che ci sono addirittura delle guerre per l'acqua, questo lo sappiamo, lo diciamo spessissimo, ma c'è anche chi non ha questo problema così impellente della mancanza d'acqua, ma ha investito moltissimo. Penso agli olandesi, che sono sempre portati, no, avanti a tutti. Assolutamente sì. C'è un'intelligenza e anche un ritorno economico però in tutto questo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io penso che l'Italia, per vari motivi storici, sociologici, per l'origine anche, diciamo, di ex municipalizzate delle aziende, per tanti motivi, per il prezzo che per molti anni è stato un prezzo politico della tariffa dell'acqua, ha un po' scontato questi fattori storici e sociologici rispetto all'efficienza delle reti, all'innovazione, per cui è stato un settore, come dire, un po' sonnecchiante, un po' dormiente, e ha rallentato molto l'introduzione dell'innovazione tecnologica. Qualcosa di meglio ha fatto certamente c'è stato nelle reti gas. Le reti gas non sono ancora pari, intelligenti, come dire, al pari delle reti elettriche, ma in questi ultimi 10-15 anni hanno subito un forte impulso all'innovazione. Lo smart metering, non la telelettura, perché poi ci terrei anche un poco a a distinguere tra questi due concetti, perché la telelettura è una semplice trasmissione a distanza del consumo, ma lo smart meter è qualcosa di molto di più, non vuol dire trasmetterlo solo a distanza da un letturista che può essere, diciamo, in prossimità dell'appartamento o dell'edificio. Smart meter, come abbiamo detto, vuol dire intelligenza distribuita, capacità di connettività e quindi dal contatore direttamente al contatore centrale remoto per la bollettazione, per la fatturazione. Professore, la fermo un attimo, abbiamo una piccola pausa e continuiamo tra pochissimo. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24. La passione si sente anche in viaggio. L'altro pianeta. Seconda parte dell'altro pianeta, stiamo parlando di acqua, stiamo parlando della Smart Water Forum Conference che si terrà il 17 giugno alla Casa dell'Energia di Milano. Il nostro ospite è il professor Furio Cascetta, direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, che è il coordinatore di questo forum. Volevo ancora chiederle, buon pomeriggio. Ancora buon pomeriggio anche a lei. Volevo chiederle, professore, chi deve essere coinvolto in questa rivoluzione che dobbiamo fare e che va fatta in tutta Italia, non solo in alcuni luoghi dove magari è già iniziata, poi magari ci dice anche dove, ma chi deve essere coinvolto nella rivoluzione? Perché non può partire solo dai gestori questo cambio di passo per arrivare a una gestione smart dell'acqua. Assolutamente vero. Riguarda tutti, ovviamente, riguarda le istituzioni politiche, riguarda le autorità di regolazione, gli enti gestori, i cittadini, le università, ognuno di noi, veramente ognuno di noi, nessuno escluso. Lei ha usato un bel termine, rivoluzione, io ne uso un altro provocatoriamente nei miei convegni, parlo di rinascimento del servizio idrico integrato, perché mi piace riprendere una definizione di uno storico del rinascimento, che viene definito come il primato della vita attiva rispetto a quella contemplativa. Se mi passa la battuta, in questi ultimi decenni il settore idrico ha mostrato una vita più contemplativa che non reattiva. È il momento di ridestarsi, di risvegliarsi e di passare veramente al primato della vita attiva, cioè all'azione, agli investimenti, all'apertura verso l'innovazione, la nuova cultura della misura. Lei mi chiedeva anche dove si è fatta qualche sperimentazione significativa. Perfetto, allora ancora una volta, distinguendo tra telelettura e smart meter, in telelettura ci sono in Italia vari progetti pilota negli ultimi 10 anni, ma sono progetti pilota di una tecnologia, diciamo, molto meno performante dello smart metering. Abbiamo già detto che lo smart metering, appunto, è il contatore elettronico, completamente elettronico, che ha integrato al suo interno questa connettività, questa capacità di comunicare a distanza direttamente il dato di misura, il dato di consumo. Quindi, se negli ultimi 10 anni abbiamo avuto dei casi spot a macchia di leopardo sul territorio nazionale di progetti pilota di telelettura, lo smart metering in realtà comincia a nascere solo da pochi anni grazie all'Authority, all'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas, ma anche del Servizio Idrico, come le sa, da pochi anni, che ha previsto lo smart metering multiservizio, cioè che ha lanciato, come dire, attraverso dei bandi, adesso ne citeremo qualcheduno, l'opportunità di investire anche in Italia nello smart metering multiservizio, cioè di affiancare tecnologia smart ai contatori del gas, ma anche ai contatori di altri sottoservizi regolati, tra cui il contatore dell'acqua per il servizio idrico. Okay. In particolare volevo citare, se posso, la delibera 393 del 2013 dell'Authority, che ha introdotto proprio progetti sperimentali di smart metering, per cui abbiamo oggi in Italia in atto, proprio in questi mesi, si stanno attuando progetti presso delle significative società multiservizi italiane a Torino, a Verona, a Bari, a Catania, a Modena e anche in altre città. Quindi le grandi multi-utility, che oltre a gestire il servizio gas gestiscono anche altri servizi regolati, elettricità o acqua per esempio, teleriscaldamento, piuttosto che altri servizi pubblici come raccolta rifiuti eccetera, partecipano a questi bandi investendo in tecnologie e cercando di fare il cosiddetto multiservizio, cioè di usufruire di una piattaforma tecnologica di trasmissione dei dati, ecco la Smart City che prende forma, non solo una rete elettrica ma anche altre reti, che praticamente consentono di veicolare le informazioni dei contatori di gas, ma anche quelli dell'acqua, acqua fredda o acqua calda, quindi teleriscaldamento. Ecco che finalmente le nostre città cominciano a diventare con questi progetti delle smart city vere e proprie, anziché solo una smart grid elettrica come lei citava all'inizio di questa nostra conversazione. E non a caso infatti tra gli ospiti del forum vedo IREN con il progetto 393, poi sì. Dopo progetto multiservizio 393 nella città di Bari. Bari tra l'altro che anni fa citavamo solo, meglio l'acquedotto pugliese, sì. Citavamo solo come fanalino di coda in tutto, ha fatto balzi avanti direi negli ultimi anni, è passando vero. Proprio no, in testa quasi ad alcune classifiche almeno. È vero, vede che l'unione fa la forza, si dice in gergo, no? Come una società come AQP, Acquedotto Pugliese, che è una società monoservizio, cioè vende solo acqua, abbinandosi con un altro gestore dell'energia, ha fatto un progetto integrato per cui praticamente acqua, gas, un distributore elettrico si sono messi insieme per fare un progetto di smart metering sulla città di Bari. È un esempio molto virtuoso di come la cooperazione tra società diciamo affini di servizi di pubblica utilità possano portare a un'innovazione. Quindi il distributore elettrico ha una sicura esperienza del smart metering elettrico, lo ha anche quello del gas, tutta questa esperienza si può travasare o comunque in cooperazione anche nel mondo dell'acqua, un esempio molto virtuoso da esportare assolutamente. Dunque, sperimentazioni altre da citare, professore Nea, oppure vediamo un po', andiamo a frugare un po' tra i vostri ospiti, che dice? Andiamo a frugare tra gli ospiti perché le città più o meno le abbiamo citate prima, le città che sono in corso di sperimentazione della 393. Poi sperimentazione, noi non vorremmo che ci fermassimo però alla sperimentazione perché ne sono già state fatte tante. Certo. Queste sperimentazioni a che punto sono del loro... Allora, le sperimentazioni percorso, diciamo. Quasi tutte si chiuderanno entro l'anno, probabilmente con una piccola coda nell'anno nuovo 2016, quindi diciamo che avremo il piacere di ascoltare il giorno 17 proprio i risultati delle installazioni, che sono partite con un po' di ritardo rispetto al, come dire, al programma originario. Sentiremo i primi risultati di queste sperimentazioni e come dice giustamente lei, la sperimentazione è una fase fondamentale ma non deve rimanere tale. Esatto, quindi l'anno prossimo li aspettiamo al varco. Aspettiamo al varco a conclusione, come dire, finale e definitiva delle sperimentazioni per avere i risultati. Certo, sarà piacevole sentire pregi e difetti, come sempre nelle conferenze bisogna essere aperti, come dire, in maniera trasparente, in maniera assolutamente onesta intellettualmente anche alle difficoltà di campo, perché mi rendo conto che mettere in piedi una rete di telecomunicazione, una rete che si interfacci con i contatori in città abitate, in metropoli, in quartieri, non sia una cosa semplice, quindi sarà interessante sapere certamente le difficoltà che saranno state incontrate nell'attuazione, ma anche le soluzioni che hanno trovate poi le varie, come dire, le varie società che hanno partecipato a queste sperimentazioni. Credo che si possa disporre tra qualche mese di un patrimonio comune del paese, come prima abbiamo detto tutti siamo coinvolti nello spingere verso un'innovazione nel settore dell'acqua, questo patrimonio di esperienze credo che l'Authority lo metterà a disposizione di tutto il paese e sarà un prezioso patrimonio. Sicuramente, sicuramente, ma il fatto che alcuni gestori siano molto piccoli sarà un freno oppure l'avere questo patrimonio comune da condividere gli aiuterà comunque a fare passi avanti che non avrebbero potuto fare da soli? Questo è verissimo, questo è verissimo. Diciamo che l'Authority in questo ha già individuato, come dire, una taglia, nel senso che il distributore troppo piccolo probabilmente non ha le economie di scala e di scopo per produrre, come dire, significativi investimenti, le grandi multiutility lo hanno molto di più. Però non dobbiamo guardare solo all'aspetto, come dire, del gestore, guardiamo anche all'aspetto del consumatore, perché ci tengo a sottolineare è uno dei punti di forza di questa conferenza dove abbiamo invitato molti consumatori ovviamente attraverso le loro rappresentanze. Voglio citare solo un dato simbolico: l'Unione Nazionale dei Consumatori ha fatto un lungo percorso di censimento, di ricognizione attraverso domande, schede, sondaggi presso i cittadini. Io ho trovato molto sorprendente nel leggere i risultati di questo studio alla domanda quali vantaggi potrebbe offrire innovazione nel mercato dell'elettricità e del gas. Tra il 60 e il 70% dei cittadini riconoscono nell'uso del contatore intelligente uno strumento che aiuti a fare fatture con consumi effettivi senza conguagli, che era l'aspetto positivo che lei citava prima, e il contatore intelligente viene percepito dal consumatore, ancora adesso non ce l'ha ancora in casa, ma l'ha intuito attraverso quello che legge, il consumatore informato, piuttosto che articoli di giornale, a risparmiare, a consumare meglio, quindi a risparmiare, essere più, diciamo, consapevole dei propri comportamenti e dei propri consumi. Un altro dato indicativo, nel 2015, l'anno in cui ci troviamo, c'è un trend di penetrazione dei contatori intelligenti nel mercato elettrico, che, come citavamo prima, è un po' un mercato leader in questo settore dello smart metering, che in America è circa il 50% e che in Europa è circa il 30%. Bene, le proiezioni fatte da Confindustria, per esempio dalla Federazione ANI di Confindustria, ci fanno vedere che tra 5 anni queste percentuali quasi raddoppiano, nel senso che il Nord America va verso un asintoto dell'80-90%, l'Europa si porta a un 70-80%, che sono, diciamo, dati molto interessanti. Questa è cultura di smart metering, se dal settore elettrico si diffonde anche negli altri settori contigui, gas e acqua, è chiaro che, diciamo, il futuro può essere letto con ottimismo, con fiducia, con speranza, però bisogna volerlo, non solo attraverso, come dire, la cogenza dei decreti delle authority, perché lo smart metering del CAS è oggi reso obbligatorio da delibere dell'authority, bisognerebbe cominciare a investire nello smart metering dell'acqua anche al di là dell'aspetto cogente, dell'aspetto deliberativo dell'authority. Vedremo cosa ci sarà, cosa dirà a questo proposito l'authority, che interverrà direttamente al forum. Certo. Lorenzo Bardelli, direttore dei sistemi idrici, appunto, dell'autorità. Dunque, i consumatori, me l'ha già detto, che ci saranno. Ci saranno degli esperti, ovviamente, di smart metering, tra l'altro smart metering come strumento di prevenzione delle contestazioni. E poi mi incuriosisce molto sapere cosa si fa al Laboratorio Nazionale di Taratura di Asti. Ad Asti c'è un laboratorio, diciamo, del circuito a crede, quindi un laboratorio ufficiale riconosciuto in termini di prove, tarature e misure dei contatori dell'acqua, ed è certamente un partner importante in questo discorso di innovazione, perché attraverso le tarature, attraverso i confronti storici tra le tarature dei vecchi contatori tradizionali e le tarature dei nuovi contatori statici elettronici, noi possiamo disporre di una casistica tecnica, di dati tecnici che ci fanno capire come la vita di un contatore statico è più lunga della vita utile di un contatore dinamico, di come l'accuratezza di misura si mantiene praticamente inalterata nel tempo, mentre il contatore meccanico, essendo tale, è soggetto alle leggi della dinamica, quindi all'usura e quindi ai consumi e quindi a un deterioramento temporale previsto in letteratura, ma anche praticamente in test di laboratorio. L'innovazione paga, basti pensare che il tempo di verifica dei contatori idrici per una tecnologia statica è amplificato rispetto a quello di un contatore dinamico. La nuova norma del Ministero dello Sviluppo Economico impone che i contatori idrici siano revisionati entro 10 anni se il contatore è meccanico, entro 13 anni se il contatore è statico. Quindi questo che cosa significa? Che evidentemente la tecnologia moderna, statica, innovativa di uno smart meter moderno apre anche, come dire, una vita più lunga di esercizio, proprio perché è basato su una tecnologia che non deteriora. Professore, la ringrazio, abbiamo concluso per questa puntata dell'Altro Pianeta, tutto il resto ce lo diciamo il 17 giugno 2015, ovviamente, alla Casa dell'Energia di Milano per il secondo Smart Water Forum Conference. Grazie mille a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio 24, buon pomeriggio. Grazie.